senza luce bianca, è la luce del nirvana che è entrato dentro me. Ora sono un altro, sono solo con il mondo, e il mondo è con me. Mi sento quasi Dio, anzi sono Dio, il Dio del mio mondo, il Dio che ho cercato ma che mai ho trovato. È nato proprio dentro di me, cresce solo dentro di me, vive solo dentro di me. È il mio nirvana, è nato proprio dentro di me, cresce solo dentro di me, vive solo dentro di me. È il mio nirvana. Ho lasciato scuola, ho lasciato casa, vivo sotto ai ponti, questa è la mia dimora. Non potevo farne a meno, rubavo per averlo, ma alla fine mi ha fottuto il mio nirvana. Non potevo farne a meno, rubavo per averla, ma alla fine mi ha ammazzato la mia eroina. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Senza luce bianca, è la luce del nirvana che è entrato dentro me.